Primo sciopero provinciale di tutti i lavoratori, di tutti i servizi delle dipendenti delle cooperative sociali, molto importante per noi. Le ragioni sono tante, diciamo che il percorso è lungo, in quanto come sindacato, come SGB, insomma da tempo comunque movimentiamo varie aziende, varie cooperative per vari motivi. In generale ovviamente il contratto delle cooperative sociali non garantisce una grande paga, c'è stato un rinnovo da poco che non ha soddisfatto i lavoratori. In particolare però sul nostro territorio abbiamo un contratto di secondo livello, sarebbe territoriale su Bologna e provincia, che ci fa calare alcune cose positive, nel senso il buono pasto esiste grazie a quell'accordo, anche se molto basso, di 4,20 euro, ma in particolare la banca ore, la famosa banca ore in negativo che le cooperative ormai stanno, dopo questo accordo provinciale, stanno diciamo assumendo come prassi e che noi contestiamo e riteniamo illegittima. Ma ovviamente il lavoro viene dalle varie aziende, dalle varie cooperative, ci sono stati scioperi specifici che hanno portato poi SGB a dire dobbiamo mettere tutto insieme, perché diciamo la causa tra virgolette di questo malessere e di questa modalità di pagamento con la banca ora in negativo viene da quell'accordo provinciale. Quindi noi abbiamo iniziato a fare delle assemblee, abbiamo costruito una piccola piattaforma che si può integrare, che appunto viene a prendere tutti i punti che ci sono in questo accordo, quindi il buono pasto da aumentare, e il rimborso chilometrico, insomma una serie di cose, ma le due fondamentali che abbiamo riportato anche all'interno della locandina sono la questione della banca ora da cancellare e la democrazia sindacale, perché questo accordo provinciale ovviamente firmato da CGL, CISL e UIL non ci viene permesso, nonostante siamo un sindacato rappresentativo sul territorio, realmente rappresentativo sul territorio, la possibilità di discuterlo, di ridiscuterlo, di aprirlo. E quindi diciamo gli obiettivi domani sono le associazioni di categoria, Lega delle Cooperative, Conf Cooperative e AGC, a cui noi comunque come SGB abbiamo già da tempo scritto chiedendo di riaprire quell'accordo, di rimetterlo in discussione, perché sulla questione della banca ora è molto peggiorativo per i lavoratori. La Lega delle Cooperative, quando ancora c'era nazionale in discussione, ci diede una risposta informale in un incontro durante uno sciopero della cooperativa Dolce, dicendo per adesso non lo possiamo aprire perché c'è il nazionale, appena chiudono il nazionale, l'accordo nazionale, e apriamo questo. Di fatto quello nazionale è stato chiuso in gennaio, noi abbiamo subito fatto richiesta di riapertura di quel tavolo e di partecipazione, nessuna risposta da parte di nessuna delle tre associazioni di categoria. Quindi le condizioni sono queste, c'è democrazia inesistente, perché i lavoratori, seppur tanti che rappresentiamo, non possono essere rappresentati poi ai tavoli, e poi comunque i contenuti, quindi il togliere la banca ora, aumentare i rimborsi chilometrici, aumentare i buoni pasto, insomma ci sono una decina di punti che noi intendiamo comunque portare avanti, è solo l'inizio ecco per noi. C'è prevista anche una manifestazione? Allora, noi per adesso abbiamo dato un presidio nella piazza di Aldo Moro, dove dietro c'è la regione, pensavamo di fare comunque un piccolo percorso e pensavamo di fare diciamo delle tappe, quindi andare alla Lega delle Cooperative che è lì attaccata, andare insomma un po' a reclamare la democrazia e la riapertura di questo tavolo, delle risposte quantomeno, che ci degnino almeno delle risposte. Da lì diciamo c'è poca strada per arrivare alla Conf Cooperative, quindi vorremmo arrivare in corteo anche alla Conf Cooperative, anche a loro fare lo stesso tipo di richiesta, di contestazione, perché le richieste le abbiamo fatte per tempo, ma nessuno ci ha mai risposto, nonostante, voglio sottolineare, queste associazioni di categorie all'interno delle aziende si incontrano con noi, SGB fa i tavoli dove ci sono anche i rappresentanti delle associazioni di categorie, quindi non è che non conoscono, che non hanno contezza dell'esistenza di SGB e della consistenza di SGB, ce l'hanno e come.